Il Covid quest'anno sta rivelando dei problemi e sta facendo vedere delle cose. I problemi di sicuro sono quelli legati alla relazione con la città, che ha una casa. Gli altri anni c'erano diverse realtà di volontariato, anche cittadini e cittadine per conto loro, che avevano piacere di passare del tempo nelle strutture del piano freddo. Quindi erano delle strutture più permeabili. Chiaro che quest'anno questa cosa non è possibile per ridurre il più possibile il numero dei possibili contagi, però evidentemente è una caratteristica che non ci piace, su cui stiamo lavorando. Il rischio è che la pandemia tagli un po' quelle relazioni, quei contatti che le persone senza dimora riuscivano a costruire in questi contesti? Le ha già tagliate in generale, nel senso che la chiusura dei bar, di tanti spazi dove le persone senza dimora potevano stare da marzo in avanti, da febbraio quando è iniziato, insomma si è fatta sentire anche particolarmente per le persone senza dimora. L'estate ovviamente è stato un po' più di tregua, come tutti, però tante delle parti relazionali erano anche vissute nello spazio pubblico o nei luoghi aperti al pubblico, che diventando chiusi. Il piano freddo non fa eccezione rispetto a questo, anzi forse rispetto al fronte relazionale è un contesto dove quantomeno possono esserci più relazioni anche un po' di tipo diverso per persone che a volte durante l'anno col caldo stanno più per conto loro. È sempre un terreno molto delicato questo della relazione con le persone senza dimora, perché è un equilibrio tra l'esserci, il farsi vedere, e il non invadere, barra rispettare i vissuti e i legittimi desideri, a volte anche di averne avuto abbastanza, della società. Non che sia una scelta di libertà, ma una scelta di aver vissuto delle cose sufficientemente dolorose da dire gli esseri umani per adesso anche meno. Il piano freddo è per necessità un punto in cui convergono tutte queste sensibilità diverse di persone anche molto diverse, e quindi più relazioni però tra persone che sono sempre quelle, mettiamola così, meno relazioni tra persone che già normalmente stanno un po' più distanti. Stiamo cercando di lavorare invece per fare in modo che sia facile anche per chi è meno collegato all'emarginazione invece entrarci in contatto, poterlo conoscere come esperienza relazionale, appunto, non come andare a fare un safari, ma come incontro, tentativo di aprire canali di comunicazione. Per fortuna ci sono anche gesti simbolici ma anche concreti che testimoniano anche una vicinanza, ed è per questo che avete appena avuto in dono, in regalo, delle arance e delle coperte. Sì, fa molto molto piacere, anche perché sia l'arancia sia le coperte provengono da altre realtà appunto impegnate per il comune, nel sociale, a Rosarno, appunto il caporalato, e le coperte legate a progetti sociali, per cui è un po' un mondo che si incontra, un mondo di attenzione alle altre persone, e questo è l'aspetto che a noi piace di più. Le persone senza dimora è bene che siano viste anche per le cose di cui hanno bisogno, ma è soprattutto bene che siano viste e possano e sappiano che c'è qualcuno che comunque pensa a persone che spesso rimangono escluse dai pensieri, a volte della famiglia perché c'è stata qualche rottura, o di amici. Quindi la parte secondo me più interessante è questo gesto di attenzione. Poi la cosa molto bella è la circolarità di questo pensare agli altri, no? Adesso stiamo ragionando anche noi su come costruire degli incontri anche lì, che non sia solo un'azione, no? Che dal punto A fa arrivare delle arance ai poverini nel punto B, ma che poi dal punto B riparta qualcosa e che ritorni al punto A, per creare delle relazioni di scambio, di simmetria, di riconoscimento reciproco. Una delle cose su cui bisogna sempre stare attenti è fermarsi solo al viaggio da A a B, perché se una persona viene vista solo come quello che non ha e quello che, di cui ha bisogno, i suoi problemi, e può solo ricevere cose e non può mai ricambiare, alla lunga si trova in una situazione, può trovarsi in una situazione un po' complicata, difficile per gli aspetti di dignità, per gli aspetti di autostima, per gli aspetti di sentimento di potere, di essere importanti per gli altri, anche per quello che si può fare, dire, pensare, non solo per come si sta. Per cui è bello che all'inizio è la conferma di un modello di attenzione alle altre persone. Più circolare è questo modello, meglio è, ma anche per quello ci siamo anche noi, insomma, certo. A spronare progetti così.